zona rossa, province come Lodi, province come Bergamo, che hanno un numero di contagiati simile al Veneto, forse anche più bassi, e hanno messo in zona gialla Napoli? Ma questi parametri come sono fatti? L'opposizione si metta d'accordo con se stessa. O i precedenti DPCM sono serviti, cioè c'è stato un calo delle curve, o i precedenti DPCM non sono serviti a nulla. E quindi bene hanno fatto a mettere ulteriori paletti. Perché Fontana dice che sono serviti e quindi la curva era calata. Mentre in Parlamento ho sentito l'opposizione dire che non sono serviti a niente i DPCM. Buongiorno Simone, qui Amsterdam. Volevo fare una proposta di confrontare le varie restrizioni che ci sono per i vari lockdown in Europa, perché io ho la sensazione che al di là di alcune piccole differenze siano molto molto simili. Qui siamo in zona arancione e anche in Germania è abbastanza simile, per cui vi proporrei questo proprio per vedere e capire anche la ragionevolezza o meno di questi decreti, di questi DPCM, anche in un contesto un po' più largo. È un buon punto, caro ascoltatore. E allora facciamo una cosa, ti chiederei di iniziare tu, mandaci un WhatsApp audio da Amsterdam, dall'Olanda, per dirci come sono le regole da voi e gli altri ascoltatori che sono in collegamento da altre zone del pianeta, perché sappiamo che ce ne sono, ce ne mandassero sulle loro, fateci anche un po' voi da corrispondenti. Se riuscite a stare nel minuto e mezzo è meglio. Però per darci l'idea di come stanno andando le cose da voi, non sarebbe male, mi fareste piacere e dareste un'informazione interessante. Sulla questione dei parametri, ho confesso come l'ascoltatrice un certo grado di perplessità. E questo grado di perplessità dipende dal fatto che fin dall'inizio è stato detto che ci sarebbero stati una serie di lockdown locali. Ora, un lockdown locale come quello della Lombardia, che riguarda a questo punto 10 milioni di persone e la regione più popolosa d'Italia, e non è un lockdown locale, siamo ai limiti di un lockdown, non dico un lockdown nazionale, ma quasi, È un sesto della popolazione italiana che va in lockdown. Se ci metti anche il Piemonte, lasciamo stare la Valle d'Aosta, no? Se ci metti anche la Calabria, saliamo ulteriormente. Forse si poteva pensare a qualcosa di più mirato, però capisco anche che le regioni, la gestione sanitaria è regionale e quindi probabilmente conta anche questo. Dall'altra parte c'è chi dice invece che è una mossa politica, perché si sono volute punire le regioni di centrodestra, così qualcuno dice dall'opposizione. A proposito di opposizione, i dati vecchi, i dati nuovi, io devo dire che l'atteggiamento ondivago l'abbiamo visto sia da parte di un pezzo del centrodestra sia da parte di un pezzo della maggioranza, devo dire, caro ascoltatore, in tutta sincerità. E la realtà alla fin fine, ma non è per giustificare, per carità. Poi andremo su un pezzo di linea Palmerini che ci racconta bene che cosa è successo ieri in Gran Bretagna, invece, a dar testimonianza di come funziona bene la politica quando vuole funzionare. Che la realtà è che di questa vicenda nessuno riesce a capirci nulla fino in fondo. Comunque inevitabilmente si naviga un po' a vista. E l'ascoltatore che ci ha mandato il messaggio da Amsterdam un po' lo dimostra. Comunque ci arriveremo. Questa è la seconda parte di 24 Mattino, sono le 7:24 minuti, è quella dedicata alla rassegna stampa, giovedì 5 novembre. Molte aperture, le aperture si dividono dei giornali tra chi parla del virus e chi parla delle scelte sul virus e chi parla degli Stati Uniti o chi parla di entrambi. Il Sole 24 Ore, la mappa delle tre Italie chiuse per Covid, il titolo è a centropagina: USA, Biden più vicino alla vittoria ma Trump scatena la guerra legale. Il Manifesto, la posta in gioco, il tema è quello dei voti postali che si stanno conteggiando in questo momento. Libero sceglie la questione Covid, stato confusionale, Covid, paese diviso in tre aree colorate. Il Messaggero sceglie gli Stati Uniti, Biden vede la Casa Bianca. La Verità, Conte fermo al semaforo, il governo è in pieno caos. però il semaforo non c'è più perché non c'è più il verde a questo punto, ci sono solo il giallo, l'arancione e il rosso. Qualcuno ha scherzato, mi hanno mandato un amico mi ha mandato un WhatsApp stamattina, Conte romanista frascico, ho scritto Conte romanista frascico perché i colori sembrano esattamente quelli, se ci metti lo sponsor sopra è fatta. La Stampa, Biden a un passo dalla Casa Bianca, Il Giornale, adesso pagate, si intende ovviamente i ristori per chi deve chiudere. Chiuse quattro regioni è il titolo di Avvenire. Biden, vicini alla vittoria, Trump lo sfida, è il titolo della Repubblica. E Corriere della Sera, Biden, vinciamo noi, Trump via ai ricorsi. Anche il Quotidiano Nazionale, le tre Italie, gialla, arancione e rossa, e il titolo sugli Stati Uniti è una foto di Biden che si toglie la mascherina alla fine di un comizio, oppure prima di iniziare un comizio, c'è posta per te, è il titolo proprio sul voto postale. Il Fatto Quotidiano prosegue la sua polemica contro i presidenti di regione, quattro regioni rosse, sgovernatori all'angolo, li chiama sgovernatori, li chiama in questo modo il Fatto Quotidiano. Iniziamo come sempre però da qualcosa di un po' diverso, e questo qualcosa di diverso ci porta su come funziona la giustizia in Italia, al di là di all'idea dei tanti proclami sul tema dei femminicidi, sul tema della violenza contro le donne. Luca Fazzo sul Giornale a pagina 22 ci racconta la storia di una donna che si chiama F, non ne viene dato il nome naturalmente, a luglio del 2012 decide che non è più il caso di andare avanti nella sua storia d'amore con l'uomo col quale stava. Quando lo comunica al compagno si trova davanti a una reazione brutale. Iniziano gli insulti, le telefonate ogni ora del giorno e della notte, le minacce, poi l'uomo passa le vie di fatto. Una mattina si trova le gomme dell'auto squarciate, fino al giorno nel quale l'uomo riesce a intercettarla per strada, le mette le mani addosso, la colpisce spedendola in ospedale. La signora non si fa intimidire, l'indomani va a denunciare l'aggressore, l'uomo che un tempo amava e che ora è diventato il suo incubo. Morale, in questi ultimi 8 anni non è successo nulla, nulla, e il reato è andato in prescrizione. L'inchiesta non fa neanche finta di partire. Intanto le persecuzioni non sono finite. A gennaio F deve presentarsi in procura per raccontare a verbale che le chiamate minatorie continuano, ma neanche questo smuove l'inchiesta. Agli atti risulta che il PM ha delegato a indagare la polizia, ma ci sono atti sconcertanti con cui anni dopo la questura risponde che le indagini non sono state fatte perché, attenzione, la delega emessa da codesta autorità giudiziaria non risulta mai pervenuta a questa divisione, ossia la polizia non ha mai ricevuto il mandato a indagare da parte della procura, e il fascicolo in archivio risulta irreperibile. Il colmo si raggiunge, scrive Fazzo, quando si scopre che il fax con il quale il PM ordinava alla polizia di mettere dei telefoni sotto controllo non è mai arrivato, perché questo mezzo di comunicazione è stato dismesso a favore della posta elettronica certificata. Quindi il PM manda il fax, la polizia vuole la posta certificata. Morale, non si intercettano i telefoni, l'indagine non parte, e cosa succede? Che riceve una lettera il 29 novembre del 2018 della procura di Prato che gli dice: si notifica quale persona offesa, richiesta di archiviazione dalla Procura della Repubblica di Prato, in quanto le violazioni ipotizzate risultano estinte per prescrizione. Ed eccolo qua, come difendiamo le donne che subiscono violenze dagli uomini. Visto che siamo un po' su questo paese malfunzionante, vi segnalo il pezzo di Silvia Pieraccini sul Sole 24 Ore, che è anche un richiamo in prima pagina. Il titolo è questo: Firenze, 154 milioni di fondi non spesi dell'alluvione del 66. È meraviglioso. In realtà non sono proprio i fondi dell'alluvione del 66, però sono i fondi per il dissesto idrogeologico che servono a tenere l'Arno a posto. Firenze ha ricordato ieri l'alluvione che 54 anni fa, il 4 novembre del 66, provocò 35 morti e danni immensi al patrimonio artistico. A più di mezzo secolo da quella tragedia, racconta appunto Silvia Pieraccini sul Sole 24 Ore, siamo a pagina 14, evitando da quella tragedia le opere strategiche per mettere in sicurezza il territorio, evitando esondazioni e danni come allora, non sono completate. L'Arno in particolare fa ancora paura. In attesa dell'adeguamento della diga di Levane in provincia di Arezzo, spero di aver messo l'accento giusto, e delle casse di espansione di Figline e Valdarno destinate a contenere la piena. Il paradosso è che non è un problema di risorse mancanti. La regione toscana ha 154 milioni di euro fermi nei cassetti, che da anni non riesce a spendere. Un tesoretto incagliato che impedisce di attuare interventi fondamentali. I motivi? Ragazzi, è la solita cosa, la conosciamo, Comitati non convocati, difficoltà di progettazione autorizzative, espropri e gare bloccate, ricorsi, rinunce, lentezze varie. Il problema già messo in luce da un articolo del Sole 24 Ore del 10 ottobre che poneva la Toscana tra i cattivi spenditori dei fondi per il dissesto idrogeologico. Questo è il racconto di Silvia Pieraccini. 154 milioni da spendere e la Toscana non riesce a spenderli. Oh, chissà invece se ne dovremmo mettere degli altri su Alitalia, perché ci comunica sempre il Sole 24 Ore pagina 20 che lo stop pandemico costerà 1 miliardo di perdite. La vecchia Alitalia vola verso una perdita di oltre 1 miliardo di euro nel 2020, mentre la nuova compagnia, che si chiama ITA, lo ricordiamo, abituatevi, Italia Trasporto Aereo, tenta un difficile decollo. Non ha una sede, non è registrata la Camera di Commercio, il CDA non è ancora insediato. Intanto la IATA ha detto che in settembre il trasporto aereo è rimasto altamente depresso a causa del Covid-19. Dunque, secondo le stime del Sole 24 Ore, per Alitalia si profila una perdita di 1 miliardo di euro, e chissà se toccherà. Temo tantissimo, toccherà rimpolpare pure questo. Una pausa. Ma per coerenza e per rispetto di tutti gli esercizi commerciali che dovranno chiudere, perché non chiudiamo anche il campionato di calcio nelle zone rosse? E poi qualcuno mi dovrebbe spiegare perché in Lombardia uno può andare a tagliarsi barba e capelli, ma il pelo della bagiana deve rimanere vintage. Giusta assolutamente la giustizia in Italia per una donna maltrattata. Esiste che devi avere il polso per scappare, andare lontano senza lasciare traccia, da un giorno all'altro, lasciando indietro tutte le tue cose. È doloroso questo messaggio, però la storia che ci racconta, che ci ha raccontato Luca Fazio sul giornale, dice molto su come ancora viene trattata la violenza sulle donne. Vabbè, l'ascoltatore, un messaggio quasi da zanzara, mi diceva Alessandro Marco Tulli, quel WhatsApp che è arrivato, che però sottolinea un po' questa assurdità, per cui no, assurdità non lo so, perché non so su quali criteri siano state, devo essere sincero, cioè pur guardando tutti i criteri, informandomi, leggendo mille cose, il motivo per il quale le estetiste restino chiuse e i barbieri, parrucchieri eccetera eccetera restino aperti, non ce l'ho ancora chiarito. Visto che siamo in tema di pandemia, fatemi iniziare da Lina Palmerini sul Sole 24 Ore a pagina 6, sugli equivoci di un'Italia divisa in zone colorate, così li definisce, e parte dall'esempio inglese. Oh, sentite che bello, guardate, ho il cuore aperto. Mentre in Gran Bretagna Boris Johnson fa votare alla Camera dei Comuni il secondo lockdown nazionale con il sostegno, pur nelle critiche, del partito di opposizione laburista, a Roma è stato ancora il giorno delle liti sulle chiusure. Conte fa un passo avanti e decide, ma la Lombardia, che finisce in zona rossa, contesta i criteri di scelta in un ennesimo capovolgimento dei ruoli. È chiaro che infilarsi nella fitta rete di dati continua a non portare a nulla, persino gli scienziati sono divisi, se non a opposte versioni dell'emergenza e a un nuovo giorno perso a vantaggio del virus. A questo punto, e finalmente, ieri sera il Premier ha annunciato le scelte del governo, perché se il metodo del confronto non contribuisce alla soluzione, può diventare il problema. L'esempio britannico invece è in qualche modo simile alla formula richiamata da Mattarella, secondo la quale si cerca di collaborare senza ostacolare le decisioni o appannare le responsabilità, fermo restando le critiche o le proposte di chi è all'opposizione. Ma qui, a portare un ennesimo cortocircuito, è stato il tipo di approccio scelto dall'esecutivo, e cioè differenziare l'Italia in zone rosse, arancioni e gialle, come se la nuova mappa geografica colorata sulla base dei rischi fosse una pagella recapitata ai governatori o una punizione per chi sta all'opposizione. L'equivoco è qui. E ha tenuto in ostaggio per giorni i decisori e chi doveva contribuire alla scelta. Ora Conte appunto ha deciso che da venerdì scatteranno le nuove misure restrittive calibrate in modo differenziato per regioni, mentre appunto Fontana contestava i dati. Il dubbio è che il tipo di resistenza sia quella del governatore, se cioè sia davvero attinente all'emergenza sanitaria o se riguardi più il danno reputazionale di un territorio che ha da sempre più di un primato in Italia. Il malinteso, in sostanza, è aver trasformato la diffusione del Covid in una livella in grado di azzerare tutte le differenze, come se la Lombardia fosse uguale alla Calabria e smettesse di esprimere le sue eccellenze, anche quelle sanitarie. Insomma, ancora una volta è diventata, come capite e come ci racconta bene Lina Palmerini, una vicenda che ha dentro della politica, che ha dentro molta politica, che ha dentro un tema di scarico di responsabilità, che ha dentro un tema di mancata comprensione delle competenze e di divisioni appunto politiche. È un, mi pare, dato che questa cosa si sta diffondendo, l'ho vista in rete, è circolata, arrivano messaggi su WhatsApp, a Roma soprattutto su questo tema sta succedendo di tutto, perché c'è stato anche un servizio al TG3 regionale, giova andare sul Foglio da Luciano Capone, che smonta questa vicenda della lattoferrina che sta circolando da qualche giorno, forse qualcuno di voi l'avrà visto. Il caso più recente, dice Capone, ci sono state tante giuste critiche a politici come Donald Trump o Matteo Salvini per aver pubblicizzato cure contro il Covid senza prove scientifiche. Ma a parte poche lodevoli eccezioni, c'è stato molto silenzio su uscite analoghe arrivate da medici, professori e università. Il caso più recente, sollevato dal Foglio da diversi divulgatori scientifici, è quello della lattoferrina. Cos'è? È un integratore alimentare che ha registrato un'improvvisa impennata di vendite dopo che alcuni ricercatori dell'Università di Tor Vergata e la Sapienza di Roma hanno dichiarato essere efficace contro il Covid. Su che base l'hanno fatto? Poi intervistati anche appunto dal TG3 regionale e quindi ampiamente diffusi a Roma, provincia e nel Lazio. C'è qualche evidenza scientifica sul fatto che la lattoferrina aiuti contro i malati contro il Covid? I ricercatori romani hanno preso 32 pazienti positivi al virus con sintomi lievi o asintomatici e gli hanno somministrato la lattoferrina. Risultato: in un terzo dei pazienti il virus è sparito dopo 15 giorni, nei restanti due terzi dopo 30 giorni. È esattamente il tempo che si impiega normalmente per liberarsi dal virus. Anche senza lattoferrina. Massimo Andreoni, ordinario di malattie infettive a Tor Vergata e autore dello studio, dice sui media che i pazienti trattati hanno eliminato il virus molto prima rispetto ai soggetti infettati che non prendono questo prodotto. È un'affermazione non dimostrata. Il gruppo di controllo, per chi capisce un po' di questioni scientifiche, il gruppo di controllo è stato fatto con 32 persone sane, non positive, alle quali non è stato dato nulla, nemmeno un placebo, e quindi non era sostanzialmente un gruppo di controllo. Questa di fatto non è una ricerca scientifica, eppure la lattoferrina è esaurita in tutte le farmacie di Roma. Gli stessi ricercatori ammettono a un certo punto che lo studio non è stato concepito come una prova per vedere il trattamento in sperimentazione, ma semplicemente come uno studio pilota, quindi non funziona, però appunto la lattoferrina è esaurita. Perdonerete una certa fissazione che abbiamo da queste parti per le scuole, e però con Corrado Zunino a pagina 19 della Repubblica ci riporta su quello che è il grande tema della chiusura delle scuole. Ne abbiamo parlato, uno dei grandi temi sulla chiusura delle scuole. Il CTS, il Comitato Tecnico Scientifico sulla Scuola Online, dice: è vero, mette a rischio la salute degli studenti. A firmare questa parte e a farla mettere a verbale sono stati due illustri membri del Comitato Tecnico Scientifico, ossia il pediatra Alberto Villani e lo pneumologo Luca Richeldi. Segnalano i rischi psicologici per la fascia di adolescenti tra i 12 e i 19 anni, che sono esattamente quelli coinvolti dalla didattica a distanza, appunto, nella nuova versione. Hanno già subito un importante impatto nel periodo finale dello scorso anno scolastico. Bisogna garantire la frequenza in presenza, soprattutto nelle fasce di popolazione più fragili. È fondamentale non solo per la formazione scolastica, ma anche per il benessere psicofisico di questa fascia di popolazione giovanile. E invece questa non è la strada che è stata scelta. Cosa ancora dai giornali? Poi ne parleremo più avanti, avremo ospite anche il sottosegretario alla difesa Angelo Tofalo, che tra l'altro viene intervistato su questa pagina del Messaggero a proposito di terrorismo anche collegato all'immigrazione. Cristiana Mangani, proprio sul Messaggero, a pagina 16, ci racconta di un altro caso dopo quello di Nizza. L'attentatore di Nizza, lo abbiamo raccontato, era sbarcato a Lampedusa. Terrorista tunisino espulso era sbarcato a Lampedusa, è un nuovo caso. Era sbarcato a Lampedusa insieme con altri 16 migranti lo scorso 18 ottobre. Era stato, e qua devo dire la nostra intelligence ha funzionato molto bene, era stato segnalato dall'intelligence come soggetto pericoloso e rimpatriato dall'Italia a Tunisi con un volo diretto ad Hamam Mehmet, partito da Palermo. A effettuare l'identificazione è stata la Digos di Agrigento ed è subito emerso che era destinatario di un provvedimento di inammissibilità sul territorio di Schengen inserito dalla Francia e di un precedente respingimento firmato dal questore nel 2017. E però è il segnale, evidentemente, che la guardia su questo fronte va tenuta alta. Sarà nostro ospite, appunto, Angelo Tofalo, col quale parleremo anche di questo. Ultima cosa prima di andare al traffico e poi andare al nostro direttore Fabio Tamburini, vi segnalo che ieri c'è stato il dietro fronte in Polonia, dato che tanto ne abbiamo parlato in questa trasmissione e anche nel corso della rassegna stampa. Lo racconta Andrea Tarquini su Repubblica. Il dietro fronte in Polonia, la vittoria delle donne contro la legge antiaborto. Il governo voleva renderlo illegale, tranne che nei casi di stupro e incesto. È arrivato lo stop alle norme dopo le proteste in piazza. Il traffico. Mattino. E buongiorno al nostro direttore, del Sole 24 Ore dell'agenzia di stampa Radio Cor, Fabio Tamburini. Oh, occhio alla tosse, Fabio, ho sentito, si è sentita. Ascolta. Per il momento sano come un pesce. meno male. Anche se c'è una spiacevole sensazione, quella della battaglia navale. Sì, cioè? Colpito tutti quelli intorno. Sì, insomma, è una sensazione davvero spiacevole. È dura. Oggi il Sole 24 Ore apre, come altri giornali, naturalmente, sulla mappa di queste tre Italie chiuse per Covid: giallo, arancione, rosso, i tre colori scelti dal governo. E ancora una volta, Fabio, uno scontro tra centro e periferia, per così dire, che si manifesta non dopo le decisioni di ieri di Conte. A me piacciono le aperture del giornale diverse da quelle degli altri, però oggi non abbiamo potuto esimerci. Devo dire che c'è grande perplessità per questi provvedimenti. Dico subito che andavano presi, nel senso che l'epidemia, l'emergenza sanitaria necessita di interventi tempestivi. Però fatemi dire due cose. La prima, non si può esimerci dal sottolinearlo, il ritardo, le incongruenze. Dopo la fine della prima ondata, tutti, compreso il governo, hanno tirato un sospiro di sollievo, ma è stato assolutamente sbagliato. Nella storia non è mai accaduto che alla prima ondata non arrivasse una seconda ondata. Abbiamo perso mesi e mesi a trastullarci con le rotelle dei banchi. mentre invece si dovevano essere organizzati degli interventi ben più importanti. La app Immuni è stato un fallimento clamoroso, il tracciamento dei positivi, secondo fallimento clamoroso, le terapie intensive sono state organizzate dimenticando un piccolo particolare che noi sul giornale abbiamo denunciato ampiamente: i medici e gli infermieri per far funzionare le terapie intensive aumentate di numero non ci sono, non sono stati organizzati i trasporti, zero al cubo. Allora, questi sono errori secondo me imperdonabili. Poi la seconda riflessione è sulle tipologie di chiusura. Insomma, l'ha sottolineato anche un ascoltatore, ma cos'è questa storia di Napoli e della Campania? Su cui, e non è una questione di nord e sud, perché il sindaco di Napoli, il governatore della Campania, De Luca, ieri sera era furente. Perché questi due pesi e due misure tra la Lombardia e la Campania? È inaccettabile prima di tutto per gli abitanti della Campania. Quindi ripeto, non è una questione di nord e sud. E infine, lasciamelo dire, chiedo scusa per la filippica, la Lombardia. Ma la Lombardia sono 10 milioni di abitanti, ma c'è una differenza tra Milano e Sondrio, ma perché non tenerne conto? E anche su Milano la curva nell'ultima settimana è cambiata, perché non tenerne conto? Insomma, io credo che qui si stia perdendo un po' di lucidità. E scusate la filippica. No, no, ma assolutamente, Fabio, ti porterei sugli Stati Uniti a questo punto, che è l'altra grande notizia di queste ore, ovviamente. Sembra che Biden ce l'abbia fatta con un margine più stretto rispetto a quanto non si preventivasse. I mercati stanno reagendo abbastanza bene, mi pare, nonostante il rischio caos giudiziario. Allora, per i mercati è una soluzione forse ottimale, perché alla fine è vero che Trump, e anche qui dobbiamo ammetterlo, ha avuto dei risultati importanti nell'economia, se non fosse stato travolto dalla pandemia, che ha significato 11 milioni di licenziamenti, sono cifre che sono davvero significative. Ecco, se non fosse stato per questo, a mio avviso si sarebbe avviato a una clamorosa riconferma. Non è stato così, hanno vinto i democratici, perché questo ormai è evidente. Ai mercati finanziari alla fine non dispiace, perché qualche elemento di positività in questo cambio della guardia c'è, ma soprattutto ai mercati piace che alla fine i democratici hanno vinto, ma non hanno stravinto. Il Senato, per esempio, resta sotto il controllo dei repubblicani. Questo determina un bilanciamento che piace molto ai mercati e a Wall Street, perché significa che i democratici non avranno la forza per fare quelle riforme che la base del partito, ricordiamoci che la sinistra dem americana vale un 30%, chiede queste riforme che Wall Street non è che gradisca molto, ma non potrà farle perché il Senato è sotto il controllo dei repubblicani, e di conseguenza i mercati ieri hanno avuto un'intonazione molto positiva. Ultima cosa, ma sì, questa è la mattinata delle filippiche, ma anche di questo va tenuto conto. Io sono un filo preoccupato, perché Trump è una bestiaccia e non è che uscirà di scena così facilmente. Ieri sia lui che il figlio, l'avvocato Giuliani, hanno speso delle parole molto pesanti, perché quando si accusa i democratici di brogli elettorali si dicono parole che hanno un significato, e non vorrei che poi se ne traggano anche delle conseguenze. Speriamo che resti tutto nell'ambito delle dispute verbali e non si passi dalle parole a episodi di piazza, dici, di violenza, sì, di violenza dire, perché l'America sorprende sempre. Penso che considerazione, pensate se avessimo noi italiani un sistema elettorale come quello americano, saremmo stati i primi a autoflagellarsi. Devo dire che la grande America ha fatto una grande pessima figura. Grazie al nostro direttore Fabio Tamburini, direttore del Sole 24 Ore, ovviamente l'agenzia di stampa Radio Corre, GR24, ci risentiamo tra poco, ovviamente con Paolo Mieli, a tra poco.